cantata io quella canzone di Jerry Turno. Tua moglie è scopata con l'altro. Dai, ragazzi, quella. La mia moglie ce l'ho qua io. Se te la vuoi scopare. Sono disposto a dartela anche, a culo vero. Ah, vai, gaffone, vai. Vai a scuola l'altro, vai a scuola l'altro.